diceva buona fortuna. Là fuori un mare di fango. King of the jungle, king of the fumo. Troppo dormo poco, diceva mio fra, da quando togo. È il nome del club. Buona fortuna in questo mare di fango. King of the jungle, king of the jungle. Yeah, walk like a champion, talk like a champion. Giro per la strada come un king of the jungle. Spacco barre dai tempi dei lotti al parco. E ancora quando vengo fuori frate scoppia al pacco. Yeah, mamma non ha cresciuto uno scemo. Ti ha detto se continui in questo modo dove andremo. Ma io volevo prendermi tutte le stelle in cielo. Pericoloso genio, ribelle, Matt Damon. Sai che la furia è street Wikipedia, ma con la terza media siamo bestie di Milano. Gorilla nella nebbia, frate vengo dal futuro tipo Levi Strauss. Vieni accomodati pure baby, casting couch. Mordo un etto d'oro e l'ostia dei club dogo. È un bagno di proiettili, è un battesimo del fuoco. M.I. bastardi, se incroci gli sguardi sopra i quattro quarti, vai via in quattro parti. Oh, mamma diceva non amare nessuna. Papà diceva buona fortuna. Là fuori un mare di fango. King of the jungle, king of the fumo. Troppo dormo poco, diceva mio fra, da quando togo. È il nome del club. Buona fortuna in questo mare di fango. King of the jungle, king of the jungle. Vengo da Milano, 9 zone 02 il prefisso. Dove se sbagli prendi un sinistro. Croci sulle fontane, croce al collo, magna c'è puttane. Criminali dentro a cene mondane. Oro nei denti, serpenti coi completi fendi. Non mostrare i veri sentimenti. Peggio i social che l'alcol. Uccidono anche più del cancro. Col Meduri un tempo piccolo, Califfo Franco. Yeah, io canto la storia di un hustler. Non devi morire, i tuoi figli saranno dei bastard. In sta giungla la mia bici è una tigre. La mu, enemies mi stanno addosso come dei tattoo. È la light, e tu sei troppo light, brody. Make money, money e il light motif. Sono in cima al Pirelli come Kong, perché ho cambiato il rap italiano con le mie song. Mamma diceva non amare nessuna. Papà diceva buona fortuna. Là fuori un mare di fango. King of the jungle, king of the fumo. Troppo dormo poco, diceva mio fra, da quando dogo. È il nome del club, buona fortuna in questo mare di fango. King of the jungle, king of the jungle. Mamma mi ha cresciuto bene, mi ha detto di non ascoltare queste iene. Papà mi ha detto di tenere alto il mento, sopravvivendo nella giungla di cemento. Nella notte, notte killer, sangue nelle mie pupille. Totalmente dipendente, sei la droga più